Il punto di Stefano Folli. Nel discorso di Senza Bologna c'è come sempre un'idea comunicativa, un'immagine buona per i telegiornali, le camicie bianche dei capi socialisti europei presenti. C'è inoltre e soprattutto un messaggio rivolto al suo partito, il PD, con un appello alla minoranza interna dei Bersani e D'Alema. Ma in definitiva, nelle parole del Premier Segretario, si ripropone una visione dell'Europa e dell'Italia in Europa su cui è difficile non essere d'accordo. Quella del canale di Sicilia, la Marina Militare, rappresenta il simbolo di un'Europa solidale che non si limita ai parametri economici. Questa volta non è retorica, perché senza l'impegno della Marina italiana, nel disinteresse, almeno fino a oggi, del resto dell'Unione, quella bambina sarebbe morta. Il che non significa naturalmente che l'Italia debba farsi carico di tutta l'immigrazione nordafricana, però vuol dire che il problema esiste per tutti. Ma l'incontro segna una svolta, almeno nell'ambito dei partiti socialisti, almeno nel rapporto fra Francia e Italia? Difficile dirlo. In un comizio è facile, molto meno nel fuoco delle politiche concrete quando sono in gioco gli interessi nazionali.